Forse si respira dopo una settimana un po' folle. Lombardia e Veneto si preparerebbero a riaprire le scuole, o quantomeno ci starebbe pensando il Veneto, la Lombardia un po' più incerta, altrettanto Piemonte e Marche. Non che la questione Covid-19 sia esaurita, i positivi sono più di 650, tra coloro che sono risultati positivi 17 sono i morti. Incremento forte di casi anche in Corea del Sud, mentre si registra il primo caso in Nigeria. Le borse scendono tutte, anche in maniera pesante, sale o si mantiene alta la preoccupazione per gli effetti economici. Mentre siamo distratti succedono anche altre cose piuttosto rilevanti. A Idlib in Siria, dove una trentina di militari turchi è stato ucciso in un raid, una nuova escalation sembra vicina ed Erdogan minaccia di non fermare il flusso dei siriani verso l'Europa. A Londra, dove in una fase di stallo delle trattative su Brexit si ipotizza l'uscita con rottura a giugno. A Milano e a Gand, Inter e Roma strappano il biglietto per gli ottavi di Europa League. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Di Simone Spezia. Che settimana, ragazzi, eh? 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. La vostra voce, mi raccomando, fatecela sentire. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, le 6:31 minuti e 18 secondi di questo venerdì 28 febbraio. In una settimana paradossale, perché siamo passati dal delirio assoluto di lunedì alla giornata di oggi, nella quale quasi improvvisamente pare tornato tutto calmo, tutto sotto controllo, da un eccesso all'altro. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, siamo in diretta anche su Facebook, ormai lo sapete, se volete seguirci, se volete vederci anche, e anche sfruttarlo come strumento per scriverci, per mandarci Messenger, cioè Messenger per mandarci i messaggi. C'è Instagram 24 Mattino e Twitter. Insomma, dicevo, una settimana veramente incredibile. In quello che, permettetemi un giudizio un po' brutale, è stato un disastro comunicativo di dimensioni apocalittiche. Resto nel mio, non tocco temi come la virologia o l'epidemiologia, però dal punto di vista della comunicazione direi che molto si può correggere, molto, molto, molto si può correggere. Al di là dell'abnormità di alcuni provvedimenti presi, insomma, il Piemonte che con tre casi chiude tutto, chiude le scuole, chiude i musei, chiude qualsiasi cosa. Tre casi, tre casi. Un po' più comprensibile ovviamente la mossa della Lombardia e probabilmente anche del Veneto. E poi però come è stato comunicato tutto questo, come sono passate le comunicazioni istituzionali e anche francamente in parte come l'hanno prese, come sono state prese dalla stampa e come sono state rigirate a lettori, ascoltatori, telespettatori. Va bene, dibattito aperto anche su questo. Se volete, la cronaca innanzitutto con il capo della Protezione Civile Borrelli sui nuovi morti. Dal dato della Regione Lombardia ci vengono segnalati 3 decessi di persone ultra ottantenni, 2 persone di 88 anni e una di 82, persone che comunque hanno un quadro clinico, avevano un quadro clinico delicato e importante. Prendete questo fatto. Allora, massimo rispetto per la figura di Angelo Borrelli, che è un ottimo funzionario e presumibilmente un eccellente capo della Protezione Civile. Però forse si poteva pensare di affiancare a Borrelli ogni santo e benedetto giorno un virologo deputato alla cosa che stesse accanto a lui in conferenza stampa e spiegasse, per esempio, che positivo, cioè contagiato, non vuol dire ammalato, non vuol dire che è in ospedale con la polmonite, vuol dire semplicemente che è risultato positivo al coronavirus e può essere anche asintomatico. Che ci spiegasse fin dall'inizio che le persone che sono morte non sono morte per il coronavirus, ma sono morte con il coronavirus, che forse ha aggravato una situazione già difficile. Insomma, molto da fare sul fronte della comunicazione, se mi posso permettere, se mi posso permettere. Borrelli sui guariti, sono la novità di ieri, per esempio, dei giorni e delle ore scorse, la novità è che danno anche i numeri dei guariti, e ci voleva tanto. Una notizia positiva, perché dalla regione Lombardia ci giunge notizia della guarigione di altre 3 persone, quindi in Lombardia il totale dei guariti è salito a 40, e i guariti erano già registrati 2 in Sicilia e 3 nel Lazio, quindi il totale dei guariti è 45. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dice di seguire le indicazioni degli esperti e dice anche non bisogna avere paura. Non dobbiamo avere paura, lo ripeto, nessuna sottovalutazione o facile ottimismo, ma noi, insieme a tutti gli altri paesi, abbiamo la forza e l'energia per affrontare questa emergenza. Dunque, Beatrice Lorenzin, già ministro della Salute, l'è stata dal 2013 al 2018, buongiorno Lorenzin, adesso deputata del Partito Democratico, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. E saluto anche Silvia Ciorilli Borrelli, corrispondente in Italia di Politico.eu, ciao Silvia, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora Lorenzin, io so che, insomma, è un po', dato che lei fa parte della maggioranza, è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però la mia impressione è che in tutta la gestione di questa vicenda, sotto molti aspetti, il problema comunicativo non è stato solamente del governo, ma ha raggiunto il suo paradosso, il suo apice, con la scena del presidente della regione Lombardia Fontana e il video con la mascherina. A me pare sinceramente che qua si sia comunicato male, in maniera confusa. Prova ne sia oggi la nuova polemica tra scienziati, con Ricciardi che dice i casi confermati sono solo 280 perché li certifica l'Istituto Superiore di Sanità, e Galli dal Sacco di Milano che dice invece no, ma guardate che tanto quelli poi vengono confermati e quindi i dati delle regioni sono buoni. Un delirio anche sui numeri, Lorenzin. Allora, ci sia un problema di comunicazione, voglio dire, sarebbe sciocco negarlo, mi sembra evidente, e bisogna assolutamente fare 2 cose. Uno, dal punto di vista, come possiamo dire, della gestione epidemiologica, imparare da questo, no? Quando si gestisce un'epidemia si mettono in campo tutte le esperienze che si hanno, ma si impara anche facendolo, come dire, considerando che ci troviamo anche in un contesto di comunicazione molto diverso. Al di là della comunicazione ufficiale, lei ha visto i social, i giornali, le interviste, cioè c'è anche una controcomunicazione che va gestita. Dall'altro lato, in questi casi è molto importante che ci sia un'attenzione a una comunicazione verticale, nel senso che ogni giorno la comunicazione deve essere data da chi è a capo delle operazioni, e in questo caso direi dalle autorità sanitarie, e le autorità sanitarie sono quelle preposte. È evidente che noi abbiamo un mondo scientifico competentissimo che si confronta, ma anche il confronto tra scienziati sui giornali è intelligibile a pochissimi, perché non tutti hanno neanche gli strumenti, diciamo, tecnici per comprendere cosa significa un dato notificato rispetto a un dato certificato, no? Quindi anche questa vicenda che cosa significa? Significa che noi, nei tamponi che vengono fatti non dai centri di riferimento, per esempio il Sacco, lo Spallanzani, ci sono moltissimi falsi positivi. Per questo, dal punto di vista anche dei dati OMS, dobbiamo fare conto con i dati che sono certificati, cioè quelli che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità, perché quelli ci permettono di fare epidemiologia, cioè di calcolare l'andamento oggettivo del virus e poterci fare sopra dei modelli matematici. A voi, Galli contesta, Galli del Sacco contesta, dice: sì, ho capito, però io che lavoro sul campo e che quotidianamente mi devo confrontare con tutto questo, mi devo anche fidare dei dati che mi arrivano dai laboratori locali, perché non è che posso aspettare l'Istituto Superiore di Sanità con i tamponi che vengono caricati su una camionetta delle forze dell'ordine, dei NAS, e poi arrivano all'ISS, e poi l'ISS... chissà, diciamo, con così, che tempi mi dai il risultato definitivo. Allora, no, i tempi sono quelli tecnici. Allora, partiamo da un presupposto. Questo, ma non è questo il caso di Galli, però dico in generale, nella gestione dell'epidemia ci sono delle regole, che sono delle regole verticali, non orizzontali. Cioè, chi è che decide se si chiudono le scuole? Chi è che decide che se si fa una quarantena oppure no? Chi è che decide come gestire i casi a casa, e cioè l'autoquarantena o l'autoisolamento? Sono le autorità sanitarie che devono e bisogna seguire necessariamente quei protocolli, perché se ognuno parte con la propria organizzazione personale, anche in buona fede, anche diciamo con valutazioni oggettive, è evidente che, come diceva lei nella presentazione, la cosa può sfuggire di mano. Ora, l'Italia si è trovata di fronte a una situazione, come dire, senza precedenti negli ultimi almeno quasi 100 anni. Sì. Quindi è una situazione più complessa da gestire, però dobbiamo essere razionali e lucidi, perché innanzitutto il virus, da come è uscito fuori, cioè da come lo stiamo comprendendo, perché ricordiamoci che noi un mese e mezzo fa di questo virus non sapevamo assolutamente niente. Quindi avevamo soltanto le immagini che ci venivano da Wuhan, che erano oggettivamente delle immagini terrorizzanti. Sì, questo è oggettivo, erano terrorizzanti. Cioè, chi doveva gestire delle decisioni a metà gennaio si trovava con la televisione accesa e con la gente che crollava per strada. Fortunatamente oggi, anche dopo questa settimana, e cioè dopo la sequenza del virus italiano al sacco, dopo aver avuto una prima esperienza sui numeri, cioè vediamo come si sta comportando il virus, possiamo, secondo me, essere molto più comportati e rassicurati e dire: ok, allora il virus lo stiamo conoscendo, è gestibile. Sì. A mio parere, lo dico nella mia esperienza, ho gestito qualche epidemia in 5 anni. In questo momento per noi la preoccupazione più grande deve essere quella di evitare il sovraffollamento degli ospedali e di evitare la sovrapposizione tra i due virus, cioè il circolo, cioè quello dell'influenza e quello del coronavirus. Quindi ci vuole, secondo me, al di là delle misure che sono prese nella zona rossa, e quindi perché stiamo cercando di spengerlo il contagio, noi dobbiamo avere le prossime settimane un atteggiamento razionale nell'autogestione, cioè responsabilizzare i cittadini. Se ci sentiamo male, stiamo a casa, stiamo a casa anche per la banale influenza, telefoniamo al medico e cerchiamo di fare insieme alle autorità sanitarie una valutazione che ci permetta di non andare in ospedale, perché in ospedale rischiamo Sennò... Certo, è quel che abbiamo detto, rischiano di sovraffollarsi. A proposito della gestione di come vengono gestite le cose, no? Oggi c'è un bel pezzo a pagina 23 della Stampa di Alessandro De Nicola, il quale ci dice, tra le altre cose, in un commento dedicato a questo, che si calcola che ad oggi siano già più di 30 i provvedimenti del governo, degli enti locali che riguardano l'epidemia, 30 nel giro di sostanzialmente una settimana. Questo per darvi la misura di come sono le cose, poi di come si stanno comportando le singole regioni. Che cosa possiamo far sentire ancora? Beh, c'è tutto il tema dell'estero, adesso ci voglio arrivare con Silvia Sciorilli Borrelli. Di Maio sul tema dell'informazione proprio. Sono numeri che riguardano lo 0,089% dei comuni italiani. Veramente importante non partecipare a questa infodemia da disinformazione, come la chiamiamo noi, che farà più danni dello stesso rischio di epidemia. Sì, qua, insomma, anche là, tutte le responsabilità che volete ai giornalisti, però non è che l'infodemia ce la siamo inventata noi, eh. Vabbè, battuta di Max da Parma, che dice ogni volta che sento Speranza dire... Non abbiate paura, non bisogna avere paura. Dopo aver chiuso sostanzialmente tutto, dopo che sono state chiuse le scuole, i musei, eccetera, eccetera, mi viene in mente la scena, ve la ricordate, quella dell'aereo più pazzo del mondo, nel quale c'era la scritta che appariva no panic, no panic, e poi usciva ok panic. Allora, prima di andare da Silvia Ciorilli Borrelli, andiamo al traffico. Mattino. Oh Silvia, che hai uno sguardo un po' dall'estero, come ci leggono in questo momento, posto che tutta una serie di paesi stanno chiudendo ai voli dall'Italia, buon ultimo Israele che si è anche scusato, tra l'altro ha detto scusate, però insomma proprio non è che possiamo prendervi, possiamo farvi scendere dagli aerei, come ci leggono? Ma diciamo che da un lato c'è la paura e ci sono le domande su che cosa comporti venire in questo momento in Italia, perché vista la drammatizzazione dell'ultima settimana, viste tutte le notizie, questo bollettino in continuo aumento, aggiornato ogni poche ore, è chiaro che c'è stata una reazione anche da un punto di vista proprio dei turisti e delle persone che dovevano venire in Italia per ragioni di turismo. E quindi ci sono state moltissime cancellazioni. Io ho viaggiato su un aereo da Londra a Roma praticamente vuoto, molti avevano rinunciato al volo. Dall'altra parte ci leggono con un punto interrogativo anche da un punto di vista istituzionale, perché la foto di Fontana con la mascherina A Londra, scusa Silvia, a Londra ti hanno controllata? No, niente, ovviamente. A Londra non mi hanno controllata, io stavo andando in Italia e quando sono arrivata dall'Italia l'epidemia non era ancora scoppiata, arrivavo poi da Roma e non da Milano, e quindi insomma questo non... Sento degli strani rumori, delle strane interferenze sotto Silvia Ciorilli Borrelli. Vediamo un attimo, abbiamo evidentemente qualche problema. Oh, in tutto ciò c'è tutto il cinema politico che è ricominciato, lo sapete. Questa ipotesi che il governo di unità nazionale a fronte dell'epidemia, ossia un progetto, secondo quello che hanno scritto i giornali le scorse ore, secondo i boato, secondo le indiscrezioni, mamma mia che noia, di... Scusate, mi annoio da solo mentre lo dico, di Renzi e Salvini per fare fuori Conte. Comunque ieri la cosa si è sostanziata in cosa? In Salvini che va da Mattarella e sostanzialmente glielo dice, cioè gli dice facciamolo, e Mattarella gli dice picche, no, in questo momento no. Comunque sentiamo Salvini. Tutto dipende anche dalle scelte del governo a livello nazionale. Per quello che riguarda riaperture, ripartenze e messaggi, l'obiettivo è quello di tornare alla normalità, alla positività e alla produzione, rispettando tutte le norme igieniche e sanitarie previste dai protocolli, per carità. Abbiamo come l'impressione che però al governo ci sia un po' troppa confusione. L'Italia è il paese più bello del mondo. Veniteci se siete all'estero senza nessuna paura. Ecco, magari qualche altro paese europeo ha tutelato maggiormente l'interesse nazionale senza seminare panico, e questo serva di lezione a chi invece magari ha provato e sta ancora provando a usare il virus per salvare la poltrona. Oh, non lo chiedo alla Lorenzin perché risposta scontata su questo fronte, però Silvia Ciorilli Borrelli ce l'abbiamo ancora, no? È caduta la linea, perché io ho l'impressione che anche l'opposizione abbia fatto discretamente la sua parte, soprattutto dal lato appunto dell'informazione, di quello che è stato detto. A proposito della famosa crisi di governo, no? C'è il fuori onda dell'ipotesi, insomma, di governo istituzione, c'è il fuori onda di Fontana. Il fuori onda di Fontana, sentiamo. Oggi mi manda un messaggio di sostegno anche a Renzi. Ma l'hai fatto vedere? Siamo arrivati proprio. È più forte l'odio di Renzi per Conte? Secondo me l'odio, esatto. Quando ho visto che ci ho litigato. Si sente poco, c'è questo Fontana che dice è più forte l'odio di Renzi per Conte, questo solo perché Renzi gli ha mandato un WhatsApp dicendo: se hai bisogno, mi dispiace per lo screzio, se hai bisogno, massima solidarietà. Parla anche Zingaretti, dice: una furbizia la crisi di governo ora. Primo fondamentale atto per riaccendere l'economia è ricostruire la fiducia e quindi una comunità che senza furbizie, per cui chi dice vogliamo salvare l'Italia in economia e facciamo la crisi di governo, si guardi al sodo. Io credo che non bisogna fare i furbi in questo momento. Gli italiani e le italiane hanno bisogno di una classe dirigente seria che non utilizza questo problema per fare furbizie o sgambetti. E non fare i furbi vuol dire collaborare davvero. Collaborare davvero. Silvia, ti abbiamo recuperato, Silvia Ciorelli Borrelli. Quanto ci credi al governo? Non c'è, no, non ce l'abbiamo. Evidente, ragazzi, cioè, mi rimane scritta qua. Vabbè. Torniamo da Beatrice Lorenzin. Va. Quanto ci crede? Lorenzin, lei che è stata anche piuttosto vicina, no, a Matteo Renzi. Quanto ci crede a questa storia del governo istituzionale, dell'idea dei due Mattei che si accordano? No, ci stanno provando, mi sembra evidente. Non è che... cioè lei è convinta di questa cosa di Renzi? Lo dicono loro, non è che c'è bisogno di essere convinti. Il punto vero è che non mi sembra proprio, diciamo, la fase, neanche dal punto di vista economico, per mettere in campo una situazione del genere. Ci manca solo la crisi di governo. Cioè, mi sembra una grandissima sciocchezza. Adesso l'Italia deve fare due cose. Da un lato, assumere decisioni razionali per contenere il contagio e, diciamo, anche imparare a convivere con una fase che non sappiamo ancora quanto si protrarrà, ma molto più ridimensionata nella dimensione dell'allarme, quindi, come dicevo, anche con comportamenti individuali e ascoltando le autorità sanitarie, e dall'altro dobbiamo invece mettere misure economiche sul campo, concrete, lavorare sodo per evitare, diciamo, una fase di contrazione economica che è sul campo, non solo aiutando le zone rosse, ma anche le intere filiere che sono coinvolte dal virus. Lo sarebbero state comunque rispetto a una dimensione globale, pensiamo alla contrazione del turismo, oggi è tutto molto più complicato, quindi io sarei molto più sul pezzo, sulle cose concrete, sulle varie filiere produttive che rischiano di entrare in crisi seriamente, piuttosto che fare avanti e indietro al Quirinale. Allora, giornata di ieri che ha visto anche l'incontro tra Francia e Italia, il vertice tra Francia e Italia a Napoli, con il Presidente del Consiglio Conte che dice: l'incontro con Macron ha rappresentato un salto di qualità. Sentiamo. Questo vertice segna un salto di qualità, anche sul piano, appunto, economico, perché vogliamo far crescere i nostri campioni europei, penso alla canteristica, al comparto automobilistico. Ci dobbiamo rendere conto in Europa che competere in un mondo sempre più globalizzato è possibile solo a condizione anche di rivedere, per quanto di ragione, le regole sulla concorrenza. Vabbè, dice il Presidente del Consiglio, bisogna vincere le sfide europee insieme. Governo. No, non sentiamo tanto, insomma, diciamo, siamo su cose abbastanza piatte, insomma, il vincere le sfide europee insieme. Il resto della giornata cosa ci racconta? Beh, ci racconta le notizie che arrivano dalla Turchia e dalla Siria, chiedo scusa, dove la tensione sta aumentando, è di fatto un vero e proprio fronte di guerra. Sono stati uccisi una trentina di militari turchi in quello che Erdogan accusa di essere un raid delle forze di Assad. La Turchia prepara un attacco militare contro le linee dell'esercito di Assad. Dall'altra parte, a sostenere Assad, come sapete, c'è la Russia, e quindi là si teme un'escalation forte. Ma soprattutto nella serata di ieri la Turchia ha detto: attenzione, dato che l'Europa non sta dando alcun sostegno in questa situazione contro Assad, noi ci prepariamo a far passare i profughi siriani, di fatto innescando una nuova crisi una nuova crisi dei profughi come quella che vivemmo all'avvio della guerra in Siria, quella che era una guerra civile e poi è diventata una guerra per procura. L'altro fronte di giornata, sicuramente mi sento di dire, è quello della Brexit, poi ne sentirete anche tra poco in GR24, però i negoziati vanno avanti. È chiaro che qua ci sono degli elementi che hanno a che fare con il modo nel quale si conducono le trattative, e quindi da una parte si è un po' più duri, ogni tanto si fa qualche dichiarazione per incrementare lievemente la tensione e portare a casa qualcosa di più. Però fatto sta che la Gran Bretagna ieri ha detto, a fronte di alcune proposte arrivate dalla Commissione europea, dall'Europa, su alcune regole che riguardano il commercio, dice Londra, se non ci saranno buoni progressi siamo addirittura pronti a uscire già a giugno, di fatto sostanzialmente senza accordo. Ci fermiamo qua, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Un ringraziamento a Beatrice Lorenzin, deputata del Partito Democratico, già ministro della Salute. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata, Lorenzin, buon lavoro. Grazie. Ci trovate come sempre su Facebook, su WhatsApp 349-238-6666, gli sms, i messaggi, anche audio, le vostre voci, fatecele sentire. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna con Paolo Mieli.